Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Guardando la classe dirigente italiana, escludendo le comparse di comodo, cioè i giovani affiancati ai grandi vecchi, sembra un reparto di geriatria. Il vero problema in Italia è il ricambio generazionale. L'aria che si respira tanto in politica quanto nell'imprenditoria o nella cultura è stantia, senza ventate di novità. Di chi è la colpa? Forse dei grandi vecchi, che non si fanno da parte? Sì, può essere, anzi, senz'altro in parte è vero, ma siamo sicuri che le colpe siano solo dei grandi vecchi? Non sarebbe meglio dire anche che i giovani non hanno nessuna voglia né interesse a sostituirli? Nella storia del genere umano non vi è mai stata una generazione dirigenziale che si sia messa in pensione spontaneamente, ma è stata la generazione più giovane a conquistare le stanze del potere, mettendo in pensione la generazione precedente. Con l'impegno imprenditoriale e politico, sociale, culturale dei giovani avviene la conquista del potere e quindi il ricambio generazionale. L'ipocrisia imperante racconta la favola che i dirigenti al potere debbano e abbiano sempre avuto la lungimiranza di avviare i figli o i collaboratori più capaci a succedere loro negli incarichi politici, cedendo loro amorevolmente il posto. Ciò non è vero. Si tratta di una mistificazione della realtà. Da che mondo è mondo, la generazione di giovani rampanti ha scalzato lottando e sacrificandosi i grandi vecchi che stavano al potere in quel momento. In nessuna società, umana o animale, il capobranco cede lo scettro senza combattere. Se nessuno lo scalza, si tiene lo scettro fino alla morte. La lotta nelle società umane in genere avviene dentro le cosiddette istituzioni. Ma è una lotta generazionale, che deve avvenire perché serve per rinnovare la stessa società. Solo le società morte aspettano la morte del capobranco per sostituirlo. Mi sembra abbastanza chiaro che questa spinta alla lotta dentro le istituzioni per la conquista dei consigli d'amministrazione delle società o dentro le università viene condotta, quando avviene, con timore da parte dei trentenni italiani, nell'errata convinzione che sia il capobranco a doversi fare da parte. Occorre, da parte dei trentenni e quarantenni, impegno nel conquistare i propri obiettivi lavorativi e professionali. Il mancato ricambio generazionale non è colpa dei vecchi leoni, ma della mancanza di giovani leoni. Il decadimento dell'Italia nei prossimi anni sarà colpa dell'attuale generazione di trentenni che non si impegneranno immediatamente in politica, nell'imprenditoria e nella cultura. Oggi, non domani. Se ciò non avverrà, il reparto geriatria si amplierà, non certo per colpa dei degenti. Massimiliano. Strade in diretta. Andiamo subito sulla 22 del Brennero, c'è un traffico bloccato, siamo tra Pegognaga e Reggiolo Rolo in direzione di Mantova a causa di un incidente, le code si sono formate già di 2 km a partire da Mantova Sud fino a Pegognaga in direzione di Mantova. Per il resto si viaggia senza difficoltà sui principali percorsi in direzione delle grandi città, prudenza per le cattive condizioni del tempo, per le piogge sparse tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, ma anche su Campania ed Abruzzo. Attenzione anche alla nebbia sulla 14 Adriatica, la visibilità è ridotta a 60 metri tra Gioia del Colle e Taranto Nord e non si vede oltre gli 80 metri sulla 24 tra Vicovaro Mandela e l'innesto con la 25 Roma Pescara. Ricordiamo a chi viaggia sulla 9 Lainate Chiasso che fino alle 7 resta chiuso lo svincolo di Lomazzo in entrata in entrambe le direzioni, in uscita verso la Svizzera. Per segnalarci code o difficoltà il nostro numero verde 800 19 73 13 e noi torniamo tra mezz'ora. Domenica 13 settembre il Papa a Castel Gandolfo ha pronunciato queste parole: «Se uno ama il prossimo con cuore puro e generoso, vuol dire che conosce veramente Dio. Se invece uno dice di avere fede, ma non ama i fratelli, non è un vero credente. Dio non abita in lui». E poi ha citato alcune parole di San Giovanni Crisostomo: «Uno può anche avere una retta fede nel Padre e nel Figlio, così come nello Spirito Santo, ma se non ha una retta vita, la sua fede non gli servirà per la salvezza». Bisogna riconoscere che il discorso è giusto e bello, però a ben riflettere esso riguarda solo una parte dell'umanità. Si rivolge a coloro che hanno la fede cristiana, i quali possono salvarsi a seconda che amino o no i fratelli. Così ho pensato ad un breve discorso, non in sostituzione di quello del pontefice, ovviamente, non mi permetterei mai, ma in aggiunta, sì da estenderlo anche a coloro che, poverini, la fede non l'hanno per niente. Che fine faranno? Basta qualche ritocco alle parole stesse del Papa e di San Crisostomo per saperlo. Ecco, se uno ama il prossimo con cuore puro e generoso, vuol dire che conosce veramente Dio, anche se non lo sa. Se uno dice di non avere fede, ma ama i fratelli, Dio abita lo stesso in lui. Uno può anche non avere fede nel Padre e nel Figlio, così come nello Spirito Santo, ma se ha una retta vita, ugualmente avrà la salvezza. Elisa. Per la prima volta sono d'accordo con quello che ha detto Franceschini. Il grande centro, ma quale grande centro? Si riempiono la bocca di aggettivi che ad arte creano un'immagine di ampiezza, di largo consenso, e non si sono contati. Non sanno forse che sono solo loro che si sentono grandi, ma che per la gente, i centristi, sono solo degli opportunisti che, non stando né da una parte né dall'altra, restano appollaiati sui blocchi di partenza, attenti ad allearsi con chi conviene di più, pronti a cambiare convinzione e direzione a seconda di come tira il vento. Sono forse un'alternativa per l'Italia? Si sentono importanti e sicuramente un po' lo sono se vogliono essere l'ago della bilancia. Beh, gli italiani oramai hanno capito come funzionano le cose, anche fin troppo bene. Alza la voce Casini, pensando di fare il pifferaio magico, che porta a sé consensi ed elettori, ma finirà a fare il topo che segue chi suona. Sarà inevitabile. Giulia. Nel maggio del 1997 un gruppo di persone salì sul campanile della Basilica di San Marco per issare una bandiera dell'antica Repubblica di Venezia. Erano i cosiddetti Serenissimi e anche se si presentarono in piazza San Marco a bordo di un carro armato della Seconda Guerra Mondiale, il loro scopo non era eversivo, ma semplicemente simbolico. Il sogno di ripristinare idealmente la sovranità dell'antica e gloriosa Repubblica di Venezia a 200 anni dalla sua caduta per mano di Napoleone. Furono arrestati e condannati a pene che andavano dai 3 ai 5 anni, scontate per intero, nonostante le ripetute domande di grazia. Una pena superiore a quella che viene mediamente inflitta a mafiosi, assassini, ladri, terroristi e stupratori, in un paese come il nostro, dove oltre l'80% dei crimini resta impunito e dove vivere onestamente, piuttosto che svolgere un'attività criminale, rappresenta ormai soltanto una questione di scelte personali. 12 anni dopo, lo stesso gesto è stato portato avanti da un gruppo di attivisti dell'organizzazione No dal Molin, che hanno tentato di salire sul campanile di San Marco per issare la loro bandiera e protestare contro la costruzione della nuova base NATO a Vicenza. Anche se la portata del gesto era ovviamente diversa, fa specie notare come nessuno di loro sia stato nemmeno fermato. È abbastanza evidente che la differenza abissale di trattamento, anche da parte dei media, è da attribuirsi a fattori puramente ideologici. Ad alcune persone tutto è permesso. Luca. Caro direttore, lunedì mattina, a commento del primo giorno di scuola, una vostra giornalista augurava agli alunni di non trovarsi davanti un insegnante distrutto da anni di stipendiucci. Direttore, mi fa veramente specie che una radio che si occupa prevalentemente di economia segua la facile polemica degli insegnanti sottopagati. Questa è, secondo me, la visione realistica della questione paga insegnanti, maestri, docenti. La valutazione della paga si deve riferire alla retribuzione oraria, e cioè somma del denaro ricevuto in un anno diviso il numero di ore effettivamente lavorate al netto delle ferie e vacanze, visto che le festività sono retribuite. Solo con questo dato gli insegnanti affini potranno avere voce nel capitolo paghe ed eventualmente lamentarsi. La questione fumosa del fatto che gli insegnanti lavorerebbero a casa si risolve facendoli lavorare in istituto. Così si porrebbe fine a tutta la tiritera che si devono comprare la carta, le penne, le matite, il bianchetto, eccetera. E per tutta la pubblica amministrazione, la giornata lavorativa dovrebbe essere di 8 ore per 5 giorni. Mi viene da sorridere quando altissimi e illustrissimi personaggi pontificano sulla costituzionalità o anticostituzionalità di molte cose della nostra società italiana. Mai però affrontano questa. Ci sono 4 milioni circa di privilegiati in Italia che lavorano meno e percepiscono di più. È giusto parlare di paga oraria e non genericamente retribuzione. Se lei, direttore, lavorasse un'ora al mese e percepisse 250 euro, non sarebbe sbagliato dire che lei guadagni 250 euro al mese. Ma sarebbe una paga da fame se per la stessa cifra lavorasse 173 ore. È quindi indispensabile dire anche quante ore uno lavora. Fino a quando la prestazione del lavoratore dipendente pubblico non si calcolerà in base alle ore lavorate, sarà profondamente ingiusto che alcune categorie lavorino 8, altre 6 e altre 4 ore al giorno. Elena. Caro direttore, sento spesso ripetere i soliti luoghi comuni contro gli insegnanti che avrebbero tante ferie, eccetera. Frasi che dimostrano come non sia giusto parlare di una professione dall'esterno, senza conoscerla per esperienza. Il solo parlare di insegnanti e insegnamento in termini generali è del tutto fuorviante. La scuola dell'infanzia non ha nulla a che fare, ad esempio, con la scuola media superiore. Ma anche all'interno della scuola superiore, coloro che insegnano sulle classi del triennio devono svolgere programmi ben diversi di fronte a quelli che insegnano ad alcuni del primo o del secondo anno. Sorvolo sul fatto che tra lo stipendio del bidello e quello di un qualsiasi insegnante c'è una differenza talmente irrisoria che mi è capitato di aprire anni fa per sbaglio lo statino di un bidello più anziano di me e di constatare che guadagnava più di me. È proprio livellando tutti gli operatori della scuola, come con distorsione ideologica li chiamano i sindacati, che si è giunti a una scuola superiore che fa da asilo parcheggio per bamboccioni e diventa ricettacolo di un corpo docente meno selezionato e pagato del corpo degli operatori ecologici. Ciò premesso, affermo che non è vero che i professori di scuola superiore abbiano 60 giorni di ferie estive. Io, insegnante di liceo classico statale, quest'anno ho finito gli esami di maturità il 15 luglio e ho ripreso le attività il 31 agosto. In totale, i giorni di ferie sono stati 38, compresi i sabati che gli altri lavoratori non conteggiano tra le ferie, mentre noi siamo tenuti a farlo. In realtà io di giorni di ferie è da lustri che ne faccio pochissimi all'anno. Da un lato, infatti, la correzione delle prove scritte è assai lunga e logorante, ma anche in questo ambito ci sono notevoli differenze. Quella dei temi di italiano, ad esempio, costituisce un lavoro artigianale su ogni pezzo, inevitabilmente diverso dall'altro, in cui la qualità della correzione è tutto. Dall'altro lato, da sempre, tutte le mie ferie estive le ho sempre sistematicamente impiegate per leggere o tradurre classici maggiori e minori. Effettivamente insegnare logora il sistema nervoso perché consiste nel sottoporsi a un esame continuo e quotidiano davanti a una numerosa giuria che non si lascia placidamente giudicare a sua volta da chi non si dimostra all'altezza del suo compito. Non si può pretendere conoscenza senza darla. Ecco perché la scuola superiore è così malconcia. Ma non si può neanche pretendere che un professore lavori e ricopra dignitosamente una cattedra impegnativa, pagandolo come un assistente d'asilo o come un bidello. Ho iniziato a lavorare a 23 anni, avendo vinto il primo concorso ordinario allora bandito. Oggi il mio salario netto è di 1.600 euro mensili. In un paese in cui sparare contro gli insegnanti è divenuto da 20 anni a questa parte lo sport popolare nazionale, non c'è da stupirsi di una crisi economica e sociale senza rapide prospettive di soluzione. Lettera firmata. Vi ho sentiti dire che Biagi era indipendente? Ma dove? Era uno di parte e lo ammetteva pure. Certo che sono fazioso, ebbe a dire, e non nascose mai, esplicitandola, l'antipatia non solo per Berlusconi ma per tutto il centrodestra. Nel suo ultimo libro, Quello che non si doveva dire, ammise pure di essersi prestato alla campagna elettorale del centrosinistra, dicendosi deluso del fatto che non gli avessero comunque più restituito il suo vecchio programma. L'intervista a Prodi per Il Fatto del 1996 o quella di 2 anni dopo sono forse state un esempio di indipendenza? La domanda più cattiva era un complimento per l'impresa di portare l'Italia nell'euro. Marco. Cara Cara Radio 24, essendo una ormai tua assidua ascoltatrice ed avendo in altre occasioni espresso il mio parere che con soddisfazione ho avuto il piacere di sentir trasmesso insieme ad altri, questa volta mi decido a scriverti, tralasciando però i consueti argomenti di attualità o di politica, per esprimere invece tutto il mio affetto e il mio ringraziamento ad una creatura che in questi giorni a poco si sta spegnendo e che purtroppo dovrò rassegnarmi a non vedere più intorno a me, la mia gatta Crocchetta, che da 11 anni mi dava conforto dopo la perdita di mio marito. Probabilmente sembrerà un argomento futile, ma per me ora è veramente un momento di grande dispiacere, perché posso confermare che dagli animali spesso si riceve un affetto e un attaccamento non comune, visto che la mia gatta era capace di non muoversi un attimo dal mio letto quando mi vedeva sofferente, oppure venirmi subito incontro al mio rientro e seguirmi passo passo in casa per farmi sentire, comunque, la sua presenza. Ora per me questo nuovo distacco sarà sicuramente pieno di dolore, forse eccessivo per qualcuno, ma credetemi, la mia gatta è stata capace di farmi superare momenti molto deprimenti e per questo, tramite la radio, voglio dirle grazie per essermi stata vicina e mi unisco al coro di chi non sopporta vedere abbandonato un animale. Anzi, lo grido ad alta voce, non abbandonate mai un animale. Grazie, cara Stefania, per la sua testimonianza e per il suo richiamo. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altre parole se non per sottolineare come il suo è sicuramente anche un emozionante appello a non lasciare soli gli anziani, i nostri anziani. Siamo una società in cui spesso anche le relazioni personali assumono un valore economico e in cui è bene, ogni tanto, ricordare invece che la solidarietà umana ha un valore molto più grande di qualunque grandezza monetaria. La sua lettera, cara Stefania, mi ha fatto anche ricordare una piccola poesia di Apollinaire. Io mi auguro di avere in casa mia una donna provvista di prudenza, un gatto a passeggio tra i libri e in tutte le stagioni amici di cui non posso fare senza. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.